Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. In cima alla scala, sull'uscio più appariscente del corridoio, era tracciato a inchiostro nero un gigantesco 1. D'Artagnan batté un colpo e all'invito proveniente dall'interno di passare avanti entrò. Porthos era coricato e stava giocando all'anzichenecco con Mousqueton per tenersi in esercizio, mentre uno spiedo ben fornito di pernici girava davanti al fuoco e ai due angoli dell'ampio camino bollivano su due caldani due casseruole esalanti un duplice odore di fricassea e di zuppa alla marinara che rallegrava l'olfatto. Alla vista dell'amico, Porthos lanciò un acuto strillo di gioia. «Per Dio! Siete voi!» disse Porthos a D'Artagnan. «Siate il benvenuto e scusatemi se non vi vengo incontro, ma...» soggiunse guardando l'amico con una certa preoccupazione. «Sapete cosa mi è capitato?» «No, mi è capitato che mentre mi gettavo a fondo sul mio avversario, al quale avevo già allungato 3 sciabolate e che volevo far fuori con una quarta, il piede mi è inciampato in una pietra e mi sono slogato un ginocchio. Davvero, parola d'onore! Fortunatamente per quello screanzato, perché l'avrei lasciato morto sul posto, ve lo garantisco!» «E che ne è stato di lui?» «Oh, non ne so niente. Ne ha avuto abbastanza ed è partito senza chiedere il resto. Ma voi, mio caro D'Artagnan, che cosa è capitato?» «È così», continuò D'Artagnan. «Quella slogatura, mio caro Porthos, vi costringe a stare a letto.» «Ah, sì, mio Dio, ecco tutto. Del resto, fra qualche giorno sarò in piedi.» «E perché non vi siete fatto trasportare a Parigi? E qui dovete annoiarvi a morte.» «Era mia intenzione, ma, caro amico, devo confessarvi una cosa.» «Quale?» «Siccome mi annoiavo a morte, come dite voi, e avevo in tasca le 75 pistole che avevate distribuito, per distrarmi ho fatto salire qua da me un gentiluomo di passaggio al quale ho proposto una partita a dadi. Ha accettato e, parola, le mie 75 pistole sono passate dalla mia tasca alla sua, senza contare il mio cavallo che si è portato via per soprammercato. Ma voi, caro D'Artagnan, e che volete, caro Porthos? Non si può essere privilegiato in tutto. Conoscete il proverbio? Sfortunato al gioco, fortunato in amore. Voi siete troppo fortunato in amore perché il gioco non si vendichi. Ma che vi importano i rovesci della fortuna? Non avete, felice briccone che non siete altro, non avete la vostra duchessa, che certo vi verrà in aiuto? Ebbene, caro D'Artagnan, guardate che disdetta è la mia, rispose Porthos con straordinaria faccia tosta. Le ho scritto di mandarmi una cinquantina di luigi che mi occorrevano assolutamente, vista la situazione in cui mi trovavo. Ebbene? Ebbene, probabilmente ella si trova nelle sue terre, perché non mi ha risposto. Davvero? No, così le ho scritto ieri una seconda lettera più insistente della prima. Mi pare che di tanto in tanto fate delle sortite, disse ridendo D'Artagnan e indicava le bottiglie e le casseruole. Ah, non io purtroppo, disse Porthos. Questa disgraziata slogatura mi costringe a stare a letto, ma Mousqueton batte la campagna e porta qua i viveri. Mousqueton, amico mio, continuò Porthos, vedete che arrivano i rinforzi? Ci vorrà un supplemento di vettovaglie. D'Artagnan, nei suoi futuri piani d'azione, è deciso com'era a fare dei suoi 3 compagni gli strumenti della sua fortuna, non era scontento di cominciare a raccogliere nelle sue mani i fili invisibili mediante i quali intendeva farli muovere. Tuttavia, lungo la strada, una profonda tristezza gli stringeva il cuore. Pensava alla giovane e bella Madame Bonacieux, che che doveva donargli il premio della sua devozione. Ma nel giovane la tristezza era dovuta non tanto al rimpianto della perduta felicità, quanto al timore che alla povera donna capitasse del male. Secondo lui, non c'era dubbio, ella era vittima di una vendetta del cardinale e, come si sa, le vendette di Sua Eminenza erano tremende. Niente che faccia passare il tempo e abbrevi il cammino quanto un pensiero che assorba tutte le facoltà mentali di colui che pensa. Appunto in preda a tale allucinazione, D'Artagnan percorse, all'andatura che garbò al suo cavallo, le 6 o 8 leghe che separano Chantilly da Crèvecœur, senza che all'arrivo al villaggio egli ricordasse niente delle cose incontrate per strada. Solo là gli tornò la memoria, scosse il capo, scorse l'osteria dove aveva lasciato Aramis e, mettendo il cavallo al trotto, si fermò alla porta. Questa volta lo ricevette non un oste, ma un'ostessa. D'Artagnan era fisionomista, squadrò con un'occhiata la larga faccia giuliva della padrona della locanda e capì che con lei non c'era bisogno di fingere e che non aveva nulla da temere da una fisionomia così gioconda. «Buona donna», le chiese D'Artagnan, «potreste darmi notizia di un mio amico che siamo stati costretti a lasciare qui una 12 di giorni fa? Un bel giovanotto, sui 23-24 anni, mite, amabile, ben fatto? Sì. E anche ferito alla spalla? Sì, appunto. Ebbene, signore, è sempre qui». «Santo cielo, mia cara donna», disse D'Artagnan, smontando e buttando le briglie del cavallo a Planchet, «mi ridate la vita. Dov'è quel caro Aramis che io l'abbracci? Perché confesso, ho fretta di rivederlo. Perdonate, signore, ma dubito che in questo momento possa ricevervi. E perché? È forse con una donna? Gesù, che dite mai? Povero figliuolo, no, signore, non è con una donna. E con chi è? Con il curato di Montdidier e con il superiore dei gesuiti di Amiens. Mio Dio!» esclamò D'Artagnan. «Il povero figliuolo è peggiorato?» «No, signore, anzi, ma in seguito alla malattia è stato illuminato dalla grazia e si è deciso a prendere gli ordini». «Giusto», affermò D'Artagnan, «ma ero scordato che era soltanto moschettiere ad interim. Il signore continua a insistere per vederlo?» «Più che mai». «Ebbene, il signore non ha che da prendere la scala a destra, nel cortile, secondo piano, numero 5. Aramis, con una veste nera e in testa una specie di copricapo rotondo e piatto, abbastanza simile a una calotta, stava seduto a un tavolo ovale ricoperto di rotoli di carta e di immensi infolio. Alla sua destra era seduto il superiore dei gesuiti e alla sua sinistra il curato di Montdidier. «Buongiorno, caro D'Artagnan», disse Aramis. «Credetemi, sono felice di vedervi. E anch'io, benché non sia ben sicuro di parlare proprio ad Aramis. A lui in persona, amico. Ma cosa ve lo fa dubitare? E temevo di aver sbagliato stanza e sulle prime ho creduto di entrare nell'appartamento di qualche ecclesiastico. Poi ho preso un altro abbaglio, trovandovi in compagnia di questi signori. Ho creduto, cioè, che foste gravemente ammalato». I due personaggi capirono l'intenzione di D'Artagnan e gli lanciarono un'occhiata quasi di minaccia, ma lui non se ne preoccupò. «Forse vi disturbo, mio caro Aramis», continuò, «perché da quel che vedo sono indotto a pensare che stavate confessandovi con questi signori». Aramis arrossì impercettibilmente. «Voi disturbarmi? Tutt'altro, caro amico, ve lo giuro, e come prova di quel che dico, lasciate che mi rallegri con voi. nel vedervi sano e salvo, perché il Signore, che è mio amico, è sfuggito a un serio pericolo», continuò Aramis con unzione, additando D'Artagnan ai due ecclesiastici. «Lodate Dio, Signore», risposero questi inchinandosi all'unisono. «Giungete a proposito, caro D'Artagnan», disse Aramis, «e partecipando alla discussione la rischiarerete con i vostri lumi. Il signor padre provinciale di Amiens, il signor curato di Montdidier e io stiamo argomentando su alcune questioni teologiche che da molto tempo incatenano la nostra attenzione. Sarei lieto di sentire il vostro parere». «Il parere di un uomo di spada non ha molto peso», rispose D'Artagnan, il quale cominciava a preoccuparsi della piega che prendevano le cose. «E credetemi», disse, «potete attenervi alla scienza di questi signori». I due neri personaggi si inchinarono a loro volta. «Al contrario», ribatté Aramis, «il vostro parere ci sarà prezioso. Ecco di che si tratta. Il padre superiore ritiene che la mia tesi debba essere soprattutto dogmatica e didattica». «La vostra tesi? Ma voi fate una tesi?» «Sicuro», rispose il gesuita. «Per l'esame che precede l'ordinazione è d'obbligo una tesi». «L'ordinazione?» esclamò D'Artagnan, il quale non riusciva a credere a quello che gli avevo detto prima l'albergatrice e poi Bazin. «L'ordinazione! Orbene», proseguì Aramis, prendendo sul seggiolone una posa aggraziata, come in una alcova, esaminandosi compiaciuto la mano bianca e grassoccia come quella di una donna, che gli teneva sollevata in alto per farne defluire il sangue. «Orbene, come avete sentito, il padre provinciale vorrebbe che la mia tesi fosse dogmatica, mentre io la vorrei spirituale. Ecco perché il padre provinciale mi proponeva un argomento non ancora trattato, che offre lo spunto, lo riconosco, a magnifici sviluppi. Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est». D'Artagnan, di cui conosciamo l'erudizione, non batté ciglio a questa citazione più di quanto non avesse fatto a quella di Monsieur de Tréville sui doni timeo danaos et dona ferentes, che secondo lui il giovane aveva ricevuto da Buckingham. «Il che significa», aggiunse Aramis per facilitargli le cose, «le due mani sono indispensabili ai preti degli ordini inferiori quando danno la benedizione». «Argomento mirabile!» esclamò il gesuita. Rimasti soli, i due amici serbarono dapprima un imbarazzato silenzio. Tuttavia uno dei due doveva pur romperlo per primo, e siccome D'Artagnan sembrava deciso a lasciare questo onore all'amico, Aramis disse: «Come vedete, mi ritrovate, tornato alle mie idee fondamentali». «Allora è deciso, Aramis. Voi prendete gli ordini. Che diranno i nostri amici? Che dirà Monsieur de Tréville? Non prendo gli ordini, ci rientro. Avevo disertato la Chiesa per il mondo, perché lo sapete che ho fatto violenza a me stesso per indossare la casacca da moschettiere». «Io non ne so nulla», disse D'Artagnan. Aramis cominciò: «Ero in seminario dall'età di 9 anni. Ne dovevo compire 20 di lì a 3 giorni. Stavo per essere abate e tutto era deciso. Una sera, che secondo il solito mi recavo in una casa da me frequentata con piacere, sia giovani che volete, sia deboli, un ufficiale che mi vedeva con occhio geloso leggere le vite dei santi alla padrona di casa, entrò d'improvviso e senza farsi annunciare. Proprio quella sera avevo tradotto un episodio di Giuditta e avevo appena finito di leggere i miei versi alla dama che mi rivolgeva un mucchio di elogi e, china sulla mia spalla, li stava rileggendo con me. L'atteggiamento un tantino abbandonato, lo ammetto, offese l'ufficiale. Egli non fece commenti, ma quando uscii mi venne dietro e, raggiuntomi, «Signor Abate», mi disse, «vi piacciono le bastonate?» «Non posso dirlo, signore», risposi, «perché nessuno ha mai osato darmene». «Ebbene, sentite, signor Abate, se ritornerete nella casa in cui vi ho incontrato stasera, io oserò». Credo di aver avuto paura. Divenni molto pallido. Sentii mancarmi le gambe, cercai una risposta che non mi venne. L'ufficiale aspettava quella risposta e, vedendo che tardava, scoppiò a ridere. Mi voltò la schiena e rientrò in casa. Sono un vero gentiluomo e ho il sangue caldo. L'affronto era terribile e, per quanto fosse rimasto ignorato in società, lo sentivo vivere e agitarsi in fondo al mio cuore. Dichiarai ai miei superiori che non mi sentivo sufficientemente preparato per l'ordinazione e, su mia domanda, la cerimonia fu procrastinata d'un anno. Mi recai dal migliore maestro di scherma di Parigi. Pattuii con lui una lezione al giorno e ogni giorno per un anno la presi. Poi, nell'anniversario del giorno in cui ero stato insultato, appesi la tonaca a un chiodo, indossai un abito da cavaliere e mi recai a un ballo che dava una mia amica, dove sapevo che si sarebbe trovato il mio uomo. Difatti, il mio ufficiale era lì. Mi accostai a lui mentre cantava un lamento d'amore, guardando teneramente una donna, e l'interruppi nel bel mezzo della seconda strofa. «Signore», gli dissi, «vi dispiace ancora che io ritorni in una certa casa di Rue Payenne e mi darete ancora le bastonate se mi salta l'estro di disubbidirvi?» L'ufficiale mi guardò stupito, poi disse, «che volete da me, signore? Non vi conosco». «Sono», risposi io, «quell'abatino che legge le vite dei santi e traduce Giuditta in versi. Vorrei che aveste tempo di venire con me a fare una passeggiatina. Domattina, se volete, e sarà con il massimo piacere». «No, non domattina, di grazia subito». Lo condussi in Rue Payenne. C'era uno splendido chiaro di luna. Mettemmo mano alle spade e al primo scontro lo stesi morto. Voi capite che oggi è venuto il momento per me di tornare in grembo alla chiesa. E perché oggi più di ieri e di domani? Questa ferita, mio caro D'Artagnan, è stata per me un avviso del cielo. Questa ferita, boh, è quasi guarita. E sono sicuro che oggi non è quella che vi fa soffrire di più. «E quale?» chiese Aramis arrossendo. «Ne avete una in cuore, Aramis, una più viva e più sanguinante, una ferita fatta da una donna». L'occhio di Aramis brillò suo malgrado. «Oh!» disse, dissimulando il turbamento sotto una finta noncuranza. «Non parlate di queste cose. Non parliamone più allora», fece D'Artagnan, «e bruciamo questa lettera che senza dubbio vi annunciava qualche altra infedeltà della vostra modistina o della vostra cameriera». «Ma di chi è questa lettera?» «Ah, di qualche damigella di compagnia in lacrime, di qualche modistina disperata. Forse è la cameriera di Madame de Chevreuse, che sarà stata costretta a tornare a Tours con la sua padrona e che, Per sfoggio avrà preso la carta profumata e sigillato la lettera con una corona di duchessa. E trasse di tasca la lettera. Aramis con un balzo l'afferrò, la lesse, o meglio la divorò. Il suo viso era raggiante. «Grazie, D'Artagnan!» esclamò Aramis quasi in delirio. «Lei è stata costretta a tornare a Tours. Non mi è infedele. Mi ama sempre. Vieni, amico mio, vieni che ti abbracci. La felicità mi soffoca.» Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.